Allora, les amis, benvenuti e benvenuti alla 18ª puntata di Extra Extra, o quantomeno alla puntata relativa alla 18ª tappa con Extra Extra, il mini podcast che accompagna la newsletter di Bidon di quest'anno. Un podcast che quotidianamente viene introdotto da un estratto della colonna sonora del musical di Tommy degli Who, in cui si parla di flipper, perché questo mini podcast, oltre che essere un extra, è anche un po' come una pallina da flipper che rimbalza di qua e di là e non ha un tema vero e proprio. Ne abbiamo affrontati tanti in queste puntate, abbiamo sentito voci diverse. Oggi affrontiamo un tema ancora differente. Non parleremo molto di Tour de France, anzi, ve lo dico subito, non ne parliamo proprio. La tappa l'avete vista tutti, spero, credo, mi auguro, perché c'è stata un'altra bellissima giornata di fughe, una splendida vittoria di Campenaerts che ci ha commosso nel vincere, nell'esultare con la sua intervista, e così è stato anche, oltre che commovente, furbo. Scaltro, l'ultimo chilometro di Campenaerts è veramente un esempio di come si vincono le corse, soprattutto quando si resta in pochi, quando si resta senza gambe. Ha ingabbiato benissimo il buon Kwiatkowski, che poi insomma anche la volata ha dimostrato non essere proprio con una gamba dei giorni migliori, e ha vinto nettamente. Bravo Campi, sono contento per lui, è sempre un bel corridore, è sempre un bel personaggio. Ha esultato sul traguardo che si trovava a Barcelonnette. Siamo nella valle occitana del Lubai. Non è una delle zone alpine più frequentate dal Tour de France, ma non è nemmeno così rara. Addirittura già nel 1911 si passò a Lubai per scalare l'Alloz, e nel 75 fu addirittura un luogo decisivo del Tour e un po' anche della storia dello sport, se vogliamo, perché c'erano due tappe nel Lubai, si conclusero entrambe con la vittoria di Bernard Thévenet. La prima era un arrivo a Praloup, un arrivo in quota, tappa di 217 km con 6 GPM e un dislivello di 5.266 metri, non male come tappetta. Merckx era partito all'attacco sull'Alloz, si piantò sull'ultima salita, andò in crisi, fu superato, perse la maglia gialla, la perse quel giorno e non l'avrebbe mai più indossata in carriera, l'ultima maglia gialla del più grande di tutti i tempi. L'indomani la tappa partì proprio da Barcelonnette, arrivo a Serre Chevalier, Thévenet diede 2 minuti e 22 secondi a tutti, e Tour de France finito, quindi un luogo anche importante nella storia di questo sport e dello sport in assoluto, perché quando si parla di Eddy Merckx si parla di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, non solo uno dei più grandi ciclisti, non solo il più grande ciclista. Però io Barcelonnette la conosco per un'altra ragione. Quando nella mia vita precedente mi occupavo di vulcani, di frane, di cose di questo tipo, nel mio ufficio si parlava spesso di Barcelonnette, perché è un luogo dove i movimenti della Terra sono studiati con enorme attenzione. È un riferimento per chi si occupa soprattutto di studio delle frane. E il motivo, ancora una volta, è una ragione storica. Perché se nel 75 era stato Merckx a franare su queste montagne, nel marzo dell'82, in maniera ancora più fragorosa, si spostarono 6 milioni di metri cubi di terra e roccia, l'intero versante di un pendio che, crollando, incombeva sui villaggi sottostanti. Si chiamava Frana de la Valette e si chiama ancora così perché sono passati 43 anni e questa frana continua a muoversi. Intorno a lei infatti sono stati realizzati tra i più moderni sistemi di monitoraggio delle frane, per questo è un riferimento. Ma questa non è una noiosa mini puntata per nerd, anche perché pure io sono passati 10 anni e mi sono dimenticato tutto di questi temi, ma mi incuriosisce sempre un po' quando questi temi incrociano il ciclismo, e quindi mi è tornata in mente una cosa. Important à toutes les équipes, il a énormément grêlé, c'est sur la route, nous avons une grosse quantité de grêle sur la route n'est plus praticable, nous arrêtons l'étape immédiatement. Quest'audio lo ricorderete bene tutte, invece lo avrete riconosciuto, era la discesa dell'Iseran, Tour de France del 2019, tour deciso da una grandinata e da una colata di fango. Fino ad oggi credo sia stato un caso unico nel ciclismo moderno, anzi, sicuramente. Un domani non lo so, perché quando parliamo della frana della Valette, per esempio, non parliamo soltanto di gravità, ma ci ritroviamo anche a parlare di clima. Infatti il cambiamento climatico con gli eventi piovosi sempre più intensi incide anche qui, anche sulle frane. Le precipitazioni, quelle violente, le piogge forti, ma anche il ritiro dei ghiacciai, la scomparsa del permafrost, sono tanti fattori che spingono le frane già in movimento e ne innescano di nuove, soprattutto di frane superficiali. In realtà come agiscano i cambiamenti climatici sulle frane è tuttora un argomento di studio dei giorni nostri, come spesso capita quando si parla di cambiamento climatico, anche perché in questo caso significa confrontare scale molto diverse, sia geograficamente, per cui un fenomeno globale con dei fenomeni locali, che anche scale temporali diverse. Quello che sappiamo è che le precipitazioni e la distribuzione di popolazione sono due fattori chiave per valutare il rischio e sono due fattori direttamente legati al cambiamento climatico. Ora, di certo nulla di tutto ciò è argomento di questo mini podcast e non mi avventuro in analisi e in riflessioni troppo grandi per me, quantomeno, non so per voi che mi ascoltate. So che quello che possiamo fare sicuramente, mentre si fanno grandi analisi, è agire per arginare il cambiamento climatico. E mi fa piacere citarlo qui perché le zone di queste tappe sono anche quelle in cui la Francia vorrebbe organizzare le Olimpiadi invernali del 2030 o del 2034. Adesso non ho seguito bene, non so com'è finita questa decisione di data. E proprio nella valle parallela a Barcelonnette, a Embrun, da tempo gli abitanti si stanno facendo sentire contro questo progetto. Quindi, quando si parla di cambiamento climatico si pensa sempre ai massimi sistemi, perché appunto è un processo su scala globale, ma è utile guardare anche l'ultra locale. Una singola frana che si muove è una minaccia per un paese, è una minaccia per una comunità, e lo abbiamo visto in tempi non troppo lontani e lo abbiamo visto in mondovisione, può essere una minaccia anche per la corsa più grande del mondo come il Tour de France. Quindi, come sempre, facciamo una cosa che sappiamo che funziona, pedaliamo, che è meglio. A demain!